Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Riferiremo in breve ciò che occorre sapere circa gli inizi del gioco delle perle. A quanto pare, esso nacque come attività musicale in Germania e in Inghilterra, in quei piccoli gruppi di musicologi e musicisti che lavoravano e studiavano nei nuovi seminari di teoria musicale. Da principio, il gioco era soltanto una forma spiritosa di esercitazione mnemonica e combinatoria che si eseguiva fra gli studenti e i musicanti, sia in Inghilterra sia in Germania, ancor prima che fosse inventato nell'Università Musicale di Colonia e assumesse il nome che porta ancora dopo tante generazioni, benché da gran tempo non abbia più niente a che vedere con le perle di vetro. L'inventore, Bastian Perrot von Kalf, un teorico della musica piuttosto stravagante, ma geniale, socievole e cortese, si servì di perle di vetro in sostituzione di lettere, numeri, note musicali o altri segni grafici. Perrot, il quale ha lasciato anche un trattato su grandezza e decadenza del contrappunto, trovò nel seminario di Colonia una consuetudine musicale già alquanto sviluppata dagli studenti. Questi, usando le abbreviazioni della loro scienza, enunciavano un motivo qualunque o l'inizio di una composizione classica, dopodiché l'interpellato doveva rispondere o con la continuazione del brano o, meglio ancora, con una voce sopra o sotto, con un tema contrastante e così via. Era un esercizio di memoria ed improvvisazione, simile a quelli che forse, anche se non in formule teoriche, ma praticamente al cembalo, col liuto, col flauto o con una voce di canto, erano stati in uso tra gli assidui studenti di musica e contrappunto ai tempi di Schütz, Pachelbel e Bach. Dopo 2 o 3 decenni, pare che il gioco abbia perduto le simpatie degli studenti di musica e sia stato invece accolto dai matematici, e per molto tempo la storia del gioco si distinse per il fatto significativo che esso era sempre usato, preferito e sviluppato da quella scienza che di volta in volta attraversava un periodo di particolare maestria o rinascita. Fra i matematici, il gioco fu portato a un alto grado di snellezza e capacità di elevazione e acquistò quasi la coscienza di sé e delle proprie possibilità. E ciò si svolse parallelamente al generale sviluppo della coscienza civile di quel tempo, la quale aveva superato la grande crisi e, come dice Plinius Ziegenhals, accettò con orgogliosa modestia il compito di appartenere a una tarda cultura, a una situazione rispondente pressappoco alla tarda antichità, al periodo ellenistico-alessandrino. Fin qui Ziegenhals. Noi invece cercheremo di concludere l'abbozzo di una storia del gioco delle perle di vetro e osserviamo che, passato dai seminari musicali a quelli matematici, esso era arrivato a un grado di sviluppo tale da poter esprimere fatti matematici con segni e abbreviazioni particolari. I giocatori si porgevano l'un l'altro quelle formule astratte, sviluppandole reciprocamente, e si presentavano a vicenda gli sviluppi e le possibilità della loro scienza. Questo gioco matematico-astronomico richiedeva molta attenzione e concentrazione, e già allora la fama di buon giocatore di perle era molto considerata fra i matematici ed equivaleva alla fama di ottimo matematico. Il gioco fu accolto temporaneamente e imitato da quasi tutte le scienze, fu applicato cioè al loro campo e se ne ha conferma per la filologia classica e per la logica. Lo studio analitico delle opere musicali aveva portato a fissare svolgimenti musicali in formule fisico-matematiche. Con questo metodo si mise a lavorare poco dopo la filologia, misurando formule linguistiche nello stesso modo in cui la fisica misurava fenomeni della natura. Seguirono poi le indagini delle arti figurative, dove, a partire dall'architettura, i rapporti con la matematica esistevano già da un pezzo. E ora si scoprirono sempre nuove relazioni, analogie e corrispondenze tra le formule astratte che, in tal modo, si venivano acquistando. Ogni scienza che si impadroniva del gioco creava, a tal fine, un linguaggio di formule, abbreviazioni e possibili combinazioni, e fra l'élite dei giovani studiosi, il gioco, con la sua successione di formule e il loro dialogo, godeva molte simpatie. Il gioco non era soltanto esercizio e svago, era la coscienza concentrata di una disciplina spirituale. Ora, al gioco delle perle mancava a quel tempo ancora una cosa, vale a dire la capacità di essere universale e al di sopra delle facoltà universitarie. Gli astronomi, i grecisti, i latinisti, gli scolastici, gli studenti di musica svolgevano i loro giochi intelligentemente regolati, ma per ciascuna facoltà, per ciascuna disciplina e diramazione, il gioco aveva un proprio linguaggio e proprie norme. Ci volle mezzo secolo perché si facesse il primo passo per valicare questi limiti. Se il gioco delle perle giunse quasi con un solo passo alla consapevolezza delle sue possibilità e quindi alla soglia della universale capacità di evoluzione, lo si dovette all'azione di un singolo, e anche questa volta il gioco progredì grazie al suo legame con la musica. Un musicologo svizzero, nonché fanatico amatore di matematica, conferì al gioco un aspetto nuovo e con ciò la possibilità di svilupparsi al massimo. Non è più possibile trovare il nome borghese di questo grand'uomo, perché il suo tempo non conosceva più il culto della persona nei settori intellettuali, ma nella storia egli è noto come l'usor o anche Ioculatur Basiliensis. La sua invenzione, come ogni invenzione, era dovuta a lui personalmente e alle sue doti, ma non era soltanto frutto di un bisogno o di un'aspirazione individuale. Era nata sotto la spinta di un motore più potente. Fu lui, infatti, a inventare, per il gioco delle perle, i principi di una lingua nuova, lingua di segni e formule, nella quale avevano ugualmente parte la matematica e la musica, sicché fu possibile unire formule astronomiche e musicali e ridurre la matematica e la musica a un comune denominatore. E se anche in tal modo lo sviluppo non poté dirsi completo, le fondamenta di tutto ciò che avvenne in seguito, nella storia del nostro caro gioco, furono gettate allora dall'ignoto di Basilea. Il gioco delle perle di vetro, che era stato una volta il particolare divertimento sia dei matematici, sia dei filologi e dei musicisti, incominciò ad affascinare man mano tutti i vari intellettuali. Lo accolsero parecchie antiche accademie, parecchie congregazioni e, in modo particolare, l'antichissima Lega dei Pellegrini d'Oriente. Anche taluni ordini cattolici vi fiutarono una nuova aria spirituale e gli si rivolsero con entusiasmo. Specialmente in alcune abbazie di Benedettini, il gioco ebbe tanto favore che già a quel tempo, come più tardi in altre occasioni, sorse il quesito se dovesse essere tollerato, favorito o vietato dalla Chiesa e dalla Curia. Dopo il perfezionamento apportatovi dal basileese, il gioco si sviluppò rapidamente e divenne ciò che è ancora: l'insieme dei fatti spirituali e artistici, il culto sublime, la unio mistica di tutti i membri dell'Universitas Litterarum. Nella nostra vita, esso ha assunto per un verso il compito dell'arte e per l'altro quello della filosofia speculativa, e non di rado come per esempio al tempo di Plinius Ziegenhals, è stato definito con un'espressione che risale ancora alla letteratura dell'epoca appendicistica e per questa indicava la meta nostalgica di alcune menti profetiche con l'espressione teatro magico. Ma per quanto il gioco delle perle si fosse infinitamente evoluto fin dagli inizi nella tecnica e nella quantità degli argomenti e rispetto alle esigenze intellettuali poste ai giocatori fosse diventato un'arte e una scienza elevata, ai tempi del Basilese gli mancava ancora una cosa essenziale. Fino allora, infatti, ogni gioco consisteva nell'ordinare, allineare, raggruppare e contrapporre idee concentrate, prese da numerosi campi del pensiero e della bellezza, in una veloce evocazione di valori e forme fuori del tempo, in un breve magistrale volo attraverso i regni dello spirito. Soltanto assai più tardi, l'inventario intellettuale della scuola e soprattutto le usanze e consuetudini dei pellegrini d'Oriente cedettero man mano al gioco anche il concetto di contemplazione. Si era notato l'inconveniente che artisti della memoria, sprovvisti di altre virtù, eseguivano giochi prestigiosi, sbalordendo e confondendo i partecipanti con la rapida successione di innumerevoli idee. Questo virtuosismo fu a poco vietato e la contemplazione diventò parte importantissima del gioco. Fu anzi l'elemento principale per gli spettatori e gli ascoltatori di ogni gioco. Non bastò più seguire intellettualmente le successioni di idee e il mosaico spirituale di un gioco con pronta attenzione e con memoria esercitata, ma si pretese una più profonda dedizione dell'anima. Dopo ogni segno evocato di volta in volta dal direttore del gioco, questo segno, il contenuto, l'origine e il senso di esso erano sottoposti a un pacato e severo esame che costringeva tutti i partecipanti a tener presenti intensamente e organicamente i contenuti del segno. Tutti i membri dell'ordine e delle associazioni del gioco portavano con sé la tecnica e l'esercizio della contemplazione dalle scuole scelte, dove si coltivava con fervore l'arte di contemplare e di meditare. In questo modo, i geroglifici del gioco erano preservati dal degenerare in semplici lettere. Ma soltanto ora il gioco incominciò ad arricchirsi di una nuova funzione, poiché divenne una festa pubblica. Anche oggidì il gioco privato è libero a chiunque e adesso si dedicano soprattutto i più giovani. Ma oggi chi dice gioco delle perle di vetro pensa anzitutto ai solenni giochi pubblici, i quali hanno luogo sotto la direzione di pochi e superiori maestri. Presieduti in ogni paese da ludi magister, ossia maestro del gioco, alcuni di questi giochi durano giorni e settimane, e mentre vengono celebrati, tutti i giocatori e ascoltatori vivono, secondo rigorosi precetti che riguardano anche la durata del sonno, una vita casta e disinteressata di perfetta concentrazione, paragonabile a quella vita di rigorosa penitenza che facevano i partecipanti agli esercizi di Sant'Ignazio. Sotto l'alterna egemonia di questa o di quella scienza o arte, il gioco dei giochi era diventato una specie di linguaggio universale col quale i giocatori erano in grado di esprimere valori mediante simboli e di metterli in vicendevole rapporto. Il gioco fu sempre strettamente connesso con la musica e si svolgeva per lo più secondo norme musicali matematiche. Si fissavano, si eseguivano e variavano un tema, due temi, tre temi, ai quali toccava all'incirca la sorte del tema di una fuga o di uno dei tempi d'un concerto. Un gioco poteva, per esempio, prendere le mosse da una data configurazione astronomica, o dal tema di una fuga di Bach, o da una tesi di Leibniz, o dalle Upanishad. E da questo tema, a seconda delle intenzioni e dell'ingegno del giocatore, l'idea conduttrice che ne era evocata poteva o continuare e ampliare la sua espressione o arricchirla con reminiscenze di idee affini. Il gioco, che a suo tempo era stato coltivato da singoli e da gruppi di amici, ma da molto tempo godeva il favore dell'autorità educativa, trovò la sua organizzazione pubblica prima di tutto in Francia e in Inghilterra. Gli altri paesi seguirono abbastanza rapidamente. In ciascuno si stabilì una commissione del gioco e un direttore supremo col titolo di Ludi Magister, e i giochi ufficiali, eseguiti sotto la guida personale del Magister, vennero elevati a solennità spirituali. Naturalmente, il Magister, come tutti gli alti e supremi funzionari del culto dello spirito, era anonimo. Tranne i più vicini, nessuno lo conosceva per nome. I mezzi di diffusione ufficiale internazionale, come la radio, erano a esclusiva disposizione dei grandi giochi ufficiali, dei quali era responsabile il Ludi Magister. Oltre alla direzione dei giochi pubblici, competeva al Magister di favorire i giocatori e le scuole del gioco, ma soprattutto di vegliare severamente a che il gioco venisse ancora sviluppato. Soltanto la Commissione Mondiale dei Magistri di tutti i paesi aveva il diritto di accogliere, come oggi non avviene quasi mai, nuovi segni e nuove formule del gioco, di ammettere eventuali ampliamenti delle regole, di deliberare se fosse il caso di includervi nuovi settori o se di questi si potesse fare a meno. Considerando il gioco come una lingua universale degli intellettuali, le commissioni dei vari paesi, sotto la guida del loro magister, sarebbero nel loro insieme l'Accademia, che sorveglia l'esistenza, lo sviluppo, la conservazione della purezza di questa lingua. Ogni commissione regionale possiede l'archivio del gioco, vale a dire tutti i segni e i simboli finora esaminati e ammessi, il cui numero è da molto tempo più elevato di quello degli antichi segni grafici cinesi. In complesso, si ritiene preparazione sufficiente per un giocatore di perle l'esame finale delle scuole superiori, specialmente delle scuole scelte, ma si presupponeva, e si presuppone ancora tacitamente, che si conosca, al di sopra della media, una delle scienze principali o la musica. Per ogni giocatore indipendente, e tanto più per il magister, giocare alle perle di vetro significa, in primo luogo, fare della musica, secondo ciò che una volta Joseph Kneckth ebbe a dire circa la natura della musica classica. Noi vediamo nella musica classica l'estratto e la somma della nostra civiltà, perché ne è il gesto e l'espressione più perspicua e significativa. In questa musica noi possediamo il retaggio dell'antichità e del cristianesimo, uno spirito di devozione serena e coraggiosa, una morale insuperabilmente cavalleresca. In fin dei conti, ogni gesto culturale classico è una morale, un modello di contegno umano condensato nel gesto. Fra il 1500 e il 1800 si sono fatti parecchi generi di musica, si sono dati stili e mezzi espressivi molto diversi, ma lo spirito, o meglio la morale, è dappertutto la stessa. L'atteggiamento umano che si esprime nella musica classica è sempre il medesimo e si basa sempre sulla stessa specie di esperienza della vita e sempre aspira alla stessa specie di superiorità sul caso. Il gesto della musica classica è conoscenza della tragicità dell'essere uomo, affermazione del destino umano, coraggio, serenità. Si tratti della grazia di un minuetto di Handel o di Couperin, si tratti della sensualità sublimata in un gesto di tenerezza, come la si riscontra in numerosi italiani o in Mozart. Si tratti, come in Bach, della tranquilla e rassegnata disposizione alla morte. Sempre vi si riscontra un ciò nonostante, un coraggio di fronte alla morte, una natura cavalleresca e lo squillo d'un riso sovrumano, di una immortale serenità. Possa esso risuonare anche nei nostri giochi delle perle e in tutta la nostra vita attiva e passiva. Queste parole furono registrate da un discepolo di Kneckth. Con esse terminiamo le nostre considerazioni sul gioco delle perle di vetro.